Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua per questa sesta giornata della Serie A. Roberto Scaltritti in regia, Giorgio De Luca in redazione. Bene, doveva essere semplicemente l'antipasto di quel gustoso, gustosissimo Siena-Milano che andrà in scena domani sera in posticipo. Ebbene, questa sesta giornata invece ha fatto scoppiare la coppia di testa. Perché? Perché Varese vince a Caserta e continua imbattuta la sua corsa in campionato. Sesto successo consecutivo, più tutti quelli della pre-season. Ancora non abbiamo trovato una squadra capace di far cadere la Cimberio. E impresa riuscita invece nei confronti di Sassari dall'Enel Brindisi, che addirittura in trasferta conquista i due punti e costringe i sardi al primo stop in campionato. Continua molto bene Roma, Corsara a Cremona, Bologna con passo sicuro regola Biella, vince Cantù che piega Avellino e bel colpo esterno di Montegranaro a Venezia, mentre sono in campo da pochi minuti Reggio Emilia e Pesaro, e poi domani sera Siena-Milano, come dicevamo. Allora, risultati di questa sesta giornata della Serie A: Banco di Sardegna-Sassari è nel Brindisi 78-90, che bolletta Cantù, Sidigas Avellino 79-67, Saie 3 Bologna, Angelico Biella 89-75, Umana Reyer Venezia, Sutor Montegranaro 83-89, Vanoli Cremona, Acea Roma 67-75, Juve Caserta Cimberio Varese 56-73, per una classifica che vede Varese in testa con 12 punti, Sassari a 10, Siena, Cantù, Bologna, Roma 8 punti, Milano, Pesaro, Reggio Emilia, Avellino, Cremona, Venezia, Caserta, Montegranaro e Brindisi a 4, un bel gruppone che pure verrà scremato tra stasera e domani sera, e Biella, fanalino di coda a 2 punti. Quindi questi un po' i numeri della giornata. Mandiamo subito a Cantù. Successo dei canturini su Avellino 79-67, infortunio per il play di Cantù Smith, ma ci racconta tutto Roberto Nardella. Buonasera Roberto. E allora, buonasera qui dal Pianella. Confermo la vittoria per 79-67 della Chebolletta Cantù sulla Sidigas Avellino. Confermo purtroppo per Cantù anche l'infortunio a Smith, uscito praticamente dopo un paio di minuti di gara. Per lui si sospetta una frattura del piede da valutare nei prossimi giorni. Noi siamo con Manu Marcosvili, a cui chiediamo un commento sulla gara e sul fatto che poi qualcuno ti diceva scherzosamente sei il nuovo playmaker di Cantù insieme a Tabu, ovviamente. Sì, buonasera a tutti, commento quello che posso dire. Siamo contenti perché abbiamo vinto una partita non facile, perché senza Geli, che è uscito dall'inizio subito, e ci dispiace tantissimo il suo infortunio alla fine costerà tantissimo, però per noi questi due punti contano tanto e sono contento che abbiamo fatto una buona partita, abbastanza buona in difensiva, quindi con la difesa abbiamo vinto e abbiamo guadagnato due punti di classifica. E poi adesso bisogna andare avanti, vediamo come sarà con Eurolega e soprattutto dobbiamo vedere come sarà con Jerry Smith. E allora, noi ringraziamo Marco Isvili per il suo contributo. Se non ci sono altre domande dallo studio, io vi ridarei la linea. Ecco Roberto, ti chiedo, dicevamo proprio 30 secondi sulle condizioni di Schmidt, siamo ancora in attesa chiaramente di ulteriori particolari, no? Ma insomma sembra veramente un brutto infortunio. Esattamente così, mi scuso se forse la qualità dell'audio non è perfetta, però comunque... No, ti sentiamo bene, ti sentiamo bene. Di rendervi notizia di quanto è successo a Smith, dicevo con Marco Isvili appunto del fatto che dopo due minuti di partita praticamente su una specie di contatto, chiamiamolo così, Smith è ricaduto male con il piede, si parlava appunto, lo diceva Trinchieri e lo confermavano anche i medici di Cantù, alla fine della partita della sospetta frattura del quinto metatarso del piede, da valutare nei prossimi giorni. Il problema per Cantù ovviamente è che innanzitutto giocherà soltanto con Tabo come playmaker e poi, come dicevamo appunto con Marco Isvili, dovrà fare di necessità virtù da questo punto di vista Cantù, e poi c'è il rischio che per Smith si possa parlare anche di uno stop di un paio di mesi. Staremo a vedere, grazie Roberto Nardella da Cantù, grazie anche a Marco Svili per la sua preziosa testimonianza. Passiamo subito al tabellino di Sassari, sconfitta a sorpresa ed è il risultato della domenica dall'Enel Brindisi in casa, 78-90 per i pugliesi in casa del Banco di Sardegna, che pure mette a referto 5 uomini in doppia cifra: Thornton 10 punti, Gnieschi 13, 16 di Travis Diner, 12 di Brian Sacchetti, 10 di Drake Diner, e tira pure col 61% da due punti Sassari, il 30% da due, il 76% ai liberi, e conquista 33 rimbalzi. Però perché vince Brindisi? Soprattutto grazie ai 21 punti di Robinson, 4 su 6 da 2, 4 su 5 da 3, 1 su 1 ai liberi, più 7 rimbalzi, anche 3 recuperi per un 27 di valutazione, i 12 di Matteo Formenti, e quando questi numeri li mettono insieme nomi italiani ci fa sempre più piacere, anche perché arrivano in 18 minuti, e 14 punti di Cedric Simmons, 19 di Jonathan Gibson con 1 su 5 da 3, 6 su 11 da 2, 4 su 5 liberi, 5 rimbalzi, anche 5 perse però, e 3 assist più un recupero. Questa l'impresa di Brindisi in quel di Sassari. Ma andiamo subito a Caserta, dove passa la capolista. Varese passa per 73-56. Carmelo Prestisimone, ben trovato, parlaci anche dei conti che non tornano per Caserta, e purtroppo non alludo solo a quelli sul parquet. Buonasera Carmelo. Sì, ciao Dario, buonasera, bentrovati da Castelmorrone, Caserta. Varese che vince, lo dicevi tu, 73-56 qui al Palamaggio, su un campo davvero ai limiti della praticabilità, perché non parliamo di calcio ma di pallacanestro. Nelle ore che hanno preceduto la partita, il campo, il parquet è stato coperto da una condensa, e quindi i giocatori hanno avuto davvero tanta difficoltà a scendere e a giocare la pallacanestro. Tieni presente che Chatfield e Michelori, due giocatori di Caserta, si sono infortunati abbastanza gravemente, così ha detto Pino Sacripanti, l'allenatore della Juve Caserta, in conferenza stampa. Varese è riuscita comunque a vincere. Io sono con un ospite, sono con Achille Polonara. Bene. Che è uno dei giovani di Varese e italiani assolutamente più promettenti. È stata la vittoria dei giovani, è stata la vittoria di Achille Polonara, di Andrea De Nicolao, che ha messo una bomba importante. Chiedo subito ad Achille, che è stato doppiamente bravo, leggiamo anche le cifre: 22 punti, 6 su 11 da 2, 3 su 5 da 3, 7 rimbalzi. Quanto è stato difficile giocare qui al Palamaggio? Sei stato doppiamente bravo, dicevo prima, perché effettivamente per mancanza di grip hai dovuto un pochettino misurarti, mi dicevi prima. Sì, soprattutto all'inizio è stata molto dura ambientarsi in questo campo molto difficile oggi, soprattutto per una squadra come noi che è abituata a correre e a saltare. Quindi molti giocatori, anche visto l'infortunio di Chatfield, dopo 20 secondi sono partiti un po' frenati. Poi con il passare col passare della partita, anche nel terzo e quarto quarto, il campo è migliorato, si scivolava di meno e abbiamo preso anche le misure, però all'inizio è stata molto dura. Può essere la nuova Siena Varese? Ma io direi è meglio non vedere troppo il futuro, di stare con i piedi per terra, di guardare partita per partita, poi naturalmente se arrivano vittorie tanto di guadagnato. Tu sei un giovane Achille, 91, 21 anni, obiettivi, la nazionale, questi europei in Slovenia, ecco, ti allettano, ti entusiasmerebbero, ecco, insomma, come li giudichi, come li vedi? Sì, penso che come ogni giocatore italiano indossare la maglia azzurra è sempre una cosa molto positiva, è una grande esperienza, e quindi niente, sarebbe un sogno per me indossare la maglia in questi europei. Ringraziamo Achille Polonara. Dario, parliamo un attimino di Caserta. Sì, proprio 20 secondi perché abbiamo un altro giovane azzurro in linea, Luca Vitali. Vai Carmelo, rapidissimo. Rapidissimo, Caserta ha una situazione finanziaria difficile, deve pagare 50.000 euro per le tasse di ottobre, sta cercando nuovi soci perché, ha detto il presidente Francesco Gervasio, i vecchi non hanno mantenuto gli impegni. Speriamo che la Campania non perda un'altra squadra di basket dopo Napoli. Speriamo proprio di no. Carmelo, bravissimo, grazie. Allora, da un giovane azzurro a un altro giovane azzurro, Luca Vitali, oggi sconfitto dalla sua ex squadra Roma, Roma è in casa con la sua nuova maglia Cremona. Ben trovato Luca. Beh, questa Roma davvero è, ve leggo le cifre: 58% da 3 punti, 47 rimbalzi, 20 punti per Datome. Vuoi vedere che questa versione low cost dei giallorossi è quella che funziona meglio? Ben trovato Luca. Buonasera a tutti. Ma penso sia una bellissima Roma, una Roma che diverte, insomma, fatta nel modo giusto, dove si vede che c'è collaborazione e sinergia tra staff tecnico, giocatori, società, tutti quanti, quindi anche il pubblico penso che non possa che appassionarsi a una squadra così, e insomma sono contento perché sono stato a Roma, quindi è stata parte della mia carriera, sono contento per Gigi e le persone che, insomma, i miei amici che ho lasciato lì. Direi però di essere anche contento di poter lavorare con coach Caia, altro ex romano, tanto per rimanere in tema, perché questa Cremona partita con un forte ridimensionamento e problemi dell'estate sta dando filo da torcere a tutti. Tra l'altro oggi l'esordio anche di Pesic dal tabellino mi sembra comunque qualche segnale positivo, no? No, sicuro, il coach sta facendo un grande lavoro e noi siamo una squadra un po' giovane, esordiente, quindi insomma lui è un allenatore esperto e ci dà una grande mano tutti i giorni. È chiaro che per noi sarà un campionato molto difficile, ma insomma siamo in buonissime mani, ecco. Ecco Luca, una battuta, chiaramente obiettivo azzurro, quella maglia vuoi tenertela addosso ben stretta, soprattutto dopo i successi di quest'estate, no? No, sicuro, far parte di quel gruppo, insomma, io faccio parte da 6-7 anni, è una cosa bellissima. Poi il gruppo che si è formato quest'estate è un gruppo molto unito e che ha ottenuto un risultato bellissimo con il sacrificio di tutti, e quindi poter far parte e continuare a far parte di quel gruppo è, insomma, è una cosa, oltre che della nazionale chiaramente, è una cosa da sogno, ecco. E allora che il sogno continui insieme a un ottimo campionato, e grazie a Luca Vitali, play e guardia di Cremona e della Nazionale, per essere stato nostro ospite. Rapidissimamente il parziale di Reggio Emilia Pesaro, 19-18 quando siamo alla fine del primo quarto. Eccoci qua, ancora numeri di questa sesta giornata della Serie A che, lo ricordiamo, ha visto la vittoria a sorpresa di Brindisi sul campo di Sassari come risultato principale. A proposito di colpi esterni, vale la pena anche sottolineare il bel risultato, la bella vittoria di Montegranaro a Venezia, 89-83 per i marchigiani, grazie ai 12 punti di Stili, 16 di Daniele Cinciarini in 34 minuti, con un 3-9 da 2, 2-4 da 3 e anche 3 perse, un recupero e un assist, i 18 di Tamar Slay, 21 punti per Freimanis con 8 su 13 da 2, 1 su 2 da 3 punti e un 11 di valutazione, e gli 11 anche 11 punti di Barnes in 25 minuti. Mentre per quanto riguarda Venezia non bastano i 18 di Clark insieme ai 17 di Diawara, che sta facendo il solito sostanzioso campionato, anche se ha piazzato oggi uno 0 su 4 da 3, 17 anche per Alvin Young, 5 su 9 da 2, 0 su 1 da 3, con Venezia che sconta il 5 su 22, un misero 22% da 3 punti. Allora, ben trovato al nostro ospite d'eccezione della domenica sera, Carlo Genta. Ciao Carlo, buonasera. Ciao Dario, buonasera a tutti. Allora, come la senti questa vigilia di Siena-Milano? Ma insomma, Milano mi sembra parecchio in difficoltà, Siena è una squadra che si sta costruendo e vedo favorita Siena, anche se Milano mi sembra una squadra in questo momento a due velocità. In Eurolega l'ho vista anche l'altra sera, è andata vicina a fare un colpaccio vincendo sul campo, cioè perdendo poi alla fine di poco sul campo dello Zagiris, che comunque è uno squadrone che comunque è forse la squadra più in forma in questo momento di questa Eurolega. È chiaro che sono partite che vengono affrontate in maniera diversa, perché in Eurolega è una specie di partita di playoff, quindi non puoi sbagliare mai, però a questo punto Milano deve battere dei colpi anche in campionato, perché c'è aria di crisi, c'è aria di contestazione. Milano è partito in campionato più o meno come l'anno scorso, senza che ce ne fossero le premesse. È una squadra che ha bisogno ancora di molto lavoro, è una squadra cui manca chiaramente leadership, e l'abbiamo già fatto la settimana scorsa questo discorso. Forse questa leadership non può venire da Omar Cook. l'altra sera ho visto un grande Langford, come l'avranno visto tutti, è una squadra che ha molto talento offensivo, si tratta di innescare questo talento offensivo e di trovare anche dei meccanismi difensivi che funzionano, perché non puoi pretendere di vincere in Euroleague in trasferta subendo oltre 90 punti. Dai. Assolutamente, tra l'altro lo dicevamo prima con Flavio Portaluppi in compagnia di Giovanni Capuano, si affronteranno le due peggiori difese di Eurolega e qualcosa vorrà pur dire. Lavori in corso ma con risultati al momento più positivi anche a Bologna, Bologna che vince 89-75 su Biella. Stefano Valenti, ben trovato. Allora, 35 punti di Minard in 32 minuti, direi che la partita è finita qua, no Stefano? Buonasera. È iniziata e finita lì, diciamo che nella sera della rivolta di Peones, con le vittorie delle ultime classifiche, Biella non ce l'ha fatta, però quei 14 punti finali non vanno equivocati, perché 13 sono nati nell'ultimo quarto. Le notizie per Bologna sono due: la prima, appunto, come dicevi tu, i 35 punti di Minard. Milano ha stabilito il suo record in Italia e li ha fatti con 10 su 12 da 3 punti. I 10 che resti segnati non sono record, perché in Italia il record sono 13 di Mike McGinn nel 89, però insomma già 10 e tanta roba. L'altra cosa è che c'è un po' di preoccupazione per Angelo Gigli, che è uscito di scena già nel secondo quarto, un colpo al ginocchio destro, si teme la lesione meniscale, insomma domani la risonanza per capirne di più. E insomma, una domenica di infortuni illustri, purtroppo quella sui campi della Serie A. Carlo, questa vittoria di Brindisi a Sassari veramente sorprendente, anche se l'Enel di Bucchi ha nel suo allenatore un marchio di fabbrica e un marchio di garanzia. Sì, però sinceramente non ci avrei scommesso un euro, anche perché Sassari era lanciatissima e gioca una pallacanestro in questo momento meravigliosa. Ha trovato una buccia di banana, ci è scivolata sopra, quasi normale che possa succedere, soprattutto in questo periodo dell'anno, e forse sarà anche l'occasione per Sacchetti per chiarire alcune cose, perché magari i suoi si erano messi a volare un po' troppo in alto. Sassari rimane comunque insieme a Varese la squadra che gioca meglio in questo inizio di stagione, Dario. Assolutamente, squadra che ha una filosofia di gioco e un roster ben delineato. Beh, dicevamo, vigilia di Siena-Milano, sentiamo anche che ne pensa Flavio Tranquillo. Buonasera Flavio, che partita dobbiamo aspettarci domani in quel di Siena? Tesa, agonistica, che non deciderà assolutamente niente di per se stesso, che ovviamente pesa molto di più per Milano che per Siena, come da parecchi anni a questa parte, perché diciamo le conseguenze della sconfitta e le prospettive della vittoria sono molto più intense, diciamo così, per Milano che per Siena. Spostandoci dall'altra parte dell'oceano, Flavio, ti abbiamo risentito insomma chiaramente come d'abitudine a Sky con la prima settimanella di telecronache NBA, è scaldata la voce dal parquet d'oltreoceano. Cosa hai visto? Quali segnali emergono al di là dei risultati che vedono i Lakers in difficoltà, Miami impegnata in questo gioco senza ruoli fissi molto stuzzicante, e Harden che poi viaggia credo a una media di 44 a partita. Ecco, ma sotto le ceneri di questi numeri qualche altro segnale che hai scrutato? Ma che l'Ovest è molto più competitivo dell'Est, che ci sono tantissime squadre che, e per gli infortuni che mi sembra pesino molto di più rispetto al solito, visto che non sono infortuni da logoramento ma infortuni addirittura in altri di partenza, e perché molte squadre hanno cambiato parecchio e altre sono in divenire tuttora, la situazione è difficile da leggere. Però questo fatto dell'Ovest e dell'Est e questa tendenza tecnica che non è impersonata solo da come giocano i Miami Heat ma anche molte altre squadre, New York per esempio ha appena vinto con Philadelphia, penso benedicendo, poverino lui, l'infortunio di Stoudemire che la costringe, ma soprattutto le permette di giocare con quattro piccoli. Questa è una tendenza in attacco sempre più importante, sempre più rilevante. Carlo, invece cosa ti sta stuzzicando di questa prima settimana d'NBA? Ma guarda, io ho visto New York, ho visto New York ieri sera, mi sembra una squadra molto strana, molto vecchia, però senz'altro una squadra intrigante che ha spazzato via Miami. Flavio ne saprà molto più di me. Io non riesco a capire quanto possa valere questa New York e non riesco neanche a capire se sia possibile trovare una chimica precisa e perfetta in questa squadra che mette insieme varie componenti di grande esperienza, di grande suggestione, ma non so di quanto valore assoluto. Intanto c'è un gol di Totti, piccola parentesi calcistica, che porta in vantaggio la Roma sul Palermo, ma di questo avremo tempo di parlare in serata. Ragazzi, per rimanere dall'altra parte dell'oceano, pronostico secco: Obama o Romney? Flavio? Obama. Carlo? Obama. Beh, allora, Obama vince 2-0, almeno nei nostri pronostici, io mi mantengo cauto e di questo non si parlerà, credo, magari in tutti i convocati domani alle 14, Carlo Genta, ma sicuramente della giornata calcistica e anche magari di basket, insomma, quindi l'appuntamento è per domani alle 14. Grazie Carlo, grazie Flavio Tranquillo, invece con il basket appuntamento tutti i giorni in tutti i convocati, poi nei nostri GR Sport e poi soprattutto domani sera alle 20.30. Stasera, oltre ai normali aggiornamenti, vi ricordo alle 22.45, il nuovo GR Sport tempi supplementari, un quarto d'ora per rivivere tutte le emozioni sportive della domenica. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, Giorgio De Luca in redazione, io rimango qui a farvi compagnia per raccontarvi Roma-Palermo e le emozioni dello sport della domenica di Radio 24.